Incontri, a cura di Elena Doni. Buongiorno a tutti, come avete sentito sono Elena Doni, sono tornata dopo un certo intervallo in cui mi ha sostituito Dina Luce. Oggi, giorno di Capodanno, sono venuta a incontrarmi con un signore che io francamente non ho prima mai visto né conosciuto. Vediamo chi è questo sconosciuto. Dunque, io posso darle dei dati. Innanzitutto, coniglietti, buongiorno a tutti e buon anno. Darò alla signora, che io non conosco sinceramente, dei dati anagrafici. Dunque, io sono genovese, sono nato a Genova nel 1938, il 31 dicembre. Quindi, prego tutti i coniglietti di mandarmi dei regali, insomma, perché ieri... Ma non ci illumina ancora sulla sua identità. Lo dico, io sono figlio di genitori ignoti, fin da piccino ho dimostrato, ho esibito delle curiose tendenze, cioè io lavoravo a maglia, mi innamoravo dei compagni, si può dire? Certo, perché no, si può dire tutto, no, sembra la radio. Ah, certo. Sì. Mi innamoravo dei compagni di scuola. Anche sì, giocavo con le bambole e mi giravo spesso vestito da bambina, ecco. Io sono Paolo Villaggio. La qualcosa naturalmente ha costretto mia madre, che ho conosciuto dopo naturalmente, a un'educazione molto severa, educazione severa la quale ha fatto di me un eterosessuale complicatissimo, insomma, e molto tormentato. Poi fortunatamente Roma, sono venuto a Roma 6 anni fa grazie alla televisione, ho fatto una televisione di grande insuccesso, io all'inizio ho avuto un insuccesso senza precedenti in televisione, e qui a Roma ho potuto, in questo clima libero, si fa per dire naturalmente, dimostrare le mie vere tendenze. Io sono conosciuto la sera, io giro vestito da donna, come la Raffaella Carrà dei Lungoteveri, purtroppo. A Roma ha curato le sue nevrosi, quindi. A Roma io ho risolto i miei problemi, dico la verità. Sì, adesso io vivo con un pontiere, un uomo molto, molto gretto, anzi inquietante sotto certi aspetti, però. Insomma, per fortuna che la signora Villaggio, che è la persona... È in ascolto. Non solo è in ascolto, ma poi... Lacrime, è la persona più graziosa e più gentile che io abbia conosciuto, che fa da tramite, perché è difficilissimo acchiappare questo Paolo Villaggio, anche perché Paolo Villaggio sta lavorando, è incredibile. Il giorno di Capodanno. Appunto, e come mai dico è una fame? Dunque, non è una fame di niente, praticamente ecco coniglietti, so che molti ogni tanto c'è qualche coniglietto che mi scrive e mi dice perché tu che sei a Roma non mi davi una mano, a me piacerebbe fare il cinema o la televisione. Non lo fate mai coniglietti, che errore madonnale. Io sono alla fame, cioè non si guadagna una lira, si guadagna poco, insomma io guadagnavo più prima quando ero impiegato, o perlomeno non più prima, ma però mi amministravo meglio i denari, invece qui terribile, spese di rappresentanza, il pontiere naturalmente che dicevo prima, e lavorare sempre perché i problemi delle produzioni sono sempre pressanti, deve uscire a Pasqua un film che si chiama Fantozzi. Che cos'è il film Fantozzi? È un film che altro non è che la traduzione sullo schermo di Fantozzi 1, cioè il mio libro Fantozzi, e il secondo tragico libro di Fantozzi. Libri che hanno avuto un tale successo che hanno costretto gli editori, che sono anche produttori, non faccio il nome, noti bene, e saranno molto scontenti, Rizzoli, lo devo dire, scusi, a produrre anche un film. Loro sperano di ripetere il successo clamoroso di parecchi anni fa dei Don Camillo, che furono 6. Finora siamo al primo Fantozzi, però io ho visto il materiale girato e vi prometto, anzi, scusi, queste dislalie, queste piccole papere sono dovute forse... Ma come parla bene, ha studiato molto lei. Io sì, sono intelligente superiore alla media. E so anche che queste papere, queste impuntature di voce sono danno dovute... Danno un senso di realtà poi. Danno un grande senso di realtà, ma anche danno anche un senso di inquietudine a me, perché un medico, un mio amico, mi ha detto che sono dovute o a stanchezza oppure a una malattia venerea, e quindi io, dico la verità, lei capisce, sono la mia preoccupazione. Dunque, Fantozzi, io spero, film, ho visto dal materiale girato, dalle prime cose che abbiamo fatto... che promette di essere come il libro. La cosa più difficile era di mantenere, essere fedeli al linguaggio iperbolico. So che molti coniglietti l'hanno comprato questi libri che, lo posso dire, hanno avuto un successo senza precedenti. Travolgente, superiore a quello di Elsa Morante. No, è la verità. Lei so che adesso scherza, invece purtroppo Elsa Morante, in ascolto, non se ne adonti, perché Elsa Morante ha scritto il libro del secolo, io ho scritto un librino, io poi non sono uno scrittore, naturalmente sono un attore di cinema. Diciamo il libro dell'anno, vogliamo fare piuttosto un bilancio dell'anno di Fantozzi? L'anno di Fantozzi è stato caratterizzato da un po' di lavoro e poi questa frenetica, drammatica attesa, quello che riguarda Fantozzi Villaggio. Fantozzi quello che Villaggio. Riguarda il Fantozzi vero? Sì, Fantozzi vero. Fantozzi vero è stato... Fantozzi con la tredicesima, col conguaglio. Ecco, Fantozzi ha avuto una svalutazione del 30%. a terrore. Davvero c'è stato? C'è stata una salutazione del 30%. Solo per Fantozzi, però. La verità no, anche per Sindona, veramente. Comunque, Fantozzi ha avuto una salutazione del 30%. Vive adesso nella nevrosi della violenza in aumento e scrive anche delle lettere ai direttori di giornali dicendo: io vorrei, insomma, ripristinare la pena di morte, voglio che... Bel democratico Fantozzi. Fantozzi è un qualunquista, quindi le idee chiarissime. Vuole i bersaglieri per strada, fasciarsi nel tricolore e soprattutto armare i capi casseggiato e formare dei manipoli. E spera in questo modo di risolvere i problemi. Cioè non lo sfiora l'idea che forse, se invece di armare un esercito potente, di armare i capi casseggiato e di reprimere, di dare maggiori poteri alla polizia, si costruisse qualche scuola e si insegnasse a tanti poveracci che sono costretti alle volte a vivere nell'unico modo in cui noi li abbiamo insegnati a vivere, noi abbiamo delle grosse colpe, forse, molti problemi si risolverebbero. Non è una predica, è effettivamente il problema più grave di Fantozzi è stata la condizione in cui vede scricchiolare, franare il proprio paese. Beh, a questo punto mi sembra che sarebbe opportuno cambiare argomento, perché questo Fantozzi un po' è pericoloso a livello di previsioni funeree, un po' non mi piace come reagisce. Vogliamo parlare di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio come vive realmente, a parte gli scherzi? Io non scherzo assolutamente, io sono Fantozzi, ho le stesse nevrosi di Fantozzi, ho le nevrosi di tutti. Io sono dell'avviso che Fantozzi, sono quasi certo, avrà un certo successo. So che molti coniglietti in ascolto lo andranno a vedere, soprattutto quelli che hanno letto i libri, naturalmente. E vi confesso che rispettano proprio fedelmente i libri, lo spirito dei libri, il linguaggio iperbolico, eccetera. Torniamo alle nevrosi di Paolo Villaggio. Sì, che sono quelle di Fantozzi, naturalmente. Sì. Fino a 30 anni fa si rideva soprattutto di situazioni imbarazzanti per quello che riguarda i rapporti interpersonali, i rapporti con la moglie, rapporti di corna, rapporti con la suocera prepotente, e poi i rapporti con la vita, la fame, l'ignoranza, la miseria dei grandi comici napoletani, tranne il grande Totò che aveva le punte di surrealismo. I comici napoletani erano buoni, ignoranti, soprattutto tonti, e simpatici, soprattutto simpatici. Poi negli anni 50, nel cinema italiano, una bomba comica, Alberto Sordi, il quale è stato il primo grosso antagonista, antipatico, comicissimo. In genere il comico aveva queste ed un prodotto proprio di un'epoca precisa, gli anni del boom. Gli anni in cui l'obiettivo era farsi strada, a qualunque costo, passando anche attraverso il cadavere della moglie, quella moglie che prima si temeva tanto, e soprattutto della suocera, naturalmente. Gli anni del boom, dove l'unico obiettivo è far denaro, comprarsi la macchina, le autostrade, denaro, autostrade, macchine, eccetera. Questa è la nevrosi di quel periodo. Poi invece è cominciato il buio dell'austerity, e allora anche Fantozzi ha capito che l'epoca automobilistica forse è finita, che forse tu considerato i giovani del 68 francese, nel maggio francese, quando predicavano e dicevano guardate che il denaro non è felicità, vecchia massima ripescata, naturalmente, e beh, forse hanno ragione, perché Fantozzi si è reso conto che i condizionamenti, la televisione, la reclam l'ha spinto a comprarsi la macchina, buttarsi tutte le domeniche in un weekend spaventoso in un'autostrada intasata, che lo rendeva più infelice. Quando ritornava in ufficio lunedì mattina era un uomo quasi che trovava un alvo materno, cioè una sua dimensione dove si sentiva più protetto e forse più Questo felice. Contraddice un po' altre idee politiche di Fantozzi, ma comunque non importa, andiamo avanti sulle sue nevrosi. Sì, ma non è detto che i qualunquisti non vadano però a fare il weekend, anche loro soprattutto. Lentamente Fantozzi però si è reso conto dall'austerità in poi che quel paradiso che gli hanno promesso, che gli ha promesso la città dei consumi, è in realtà l'inferno. E allora ha cominciato ad avere paura. E allora ecco che cresce la nevrosi. Fantozzi ha paura di tutto. Ha paura che la società nella quale vive non lo protegga mai abbastanza. Ecco, questa è la sua grande paura. Il capo ufficio prepotente, la società burosaurica che sta sopra di lui con dei capuffici che esistono o non esistono, che sono mega presidenti galattici che non si sa se esistono o non esistono, che forse sono entità inventate proprio dall'autorità, autorità con la A maiuscola quasi kafkiana. E allora Fantozzi vive di queste nevrosi, ha paura di tutto, ha paura perché legge i giornali e vede la spiaggia è stata dichiarata inagibile, ovunque cartelli di vieto balneazione, non ci saranno più animali, c'è solo catrame, non ci saranno più foglie e non ci sarà più niente, dove vivere? E allora vive di questo, vive di tante piccole paure che cumulandosi formano la grande paura esistenziale di Fantozzi, la grande nevrosi. Ma allora non c'è uno spiraglio di luce in questa vita di Fantozzi, almeno per il 1975? Sì, a Fantozzi rimane sempre la speranza. Fantozzi, sinceramente, è un uomo abbastanza felice, pieno di nevrosi, pieno di paure, però che non rinuncia a una cosa, a vivere. Male, vivrà peggio forse, perché il mare sarà più inquinato, le strade saranno più insopportabilmente piene di come si chiama? Cianuro di potassio, no? Sì, è successo un po' di giorni fa, ma insomma è casuale. Biossido di carbonio, una cosa mostruosa. Non ci saranno più pesci, non ci saranno più posti né spiagge dove andare, né posti nei quali vivere da soli, senza rumori di megato omicidiani, però comunque gli rimane una speranza, quella di poter sperare a vivere. Ecco, Fantozzi rinuncia a tutto, ma non a una cosa, quella di sperare a vivere. Va bene, diciamo che la speranza di Fantozzi è un po' modesta, ma sperare di vivere meglio, tutto sommato, è la speranza di tutti noi, Paolo Villaggio compreso, spero. Sì, ma vede, io ho detto non sperare di vivere meglio, Fantozzi ormai spera solo di sopravvivere, ha proprio paura che il mondo nel quale lui è vissuto si dissolva, c'è questo clima, lo si sente, io vivo a Roma, una città poi che è particolarmente importante per questi climi, è una città piena di flautolenze tremende, in attesa di pestilenze quasi, gli appuntamenti sono ci vediamo forse, ma vedremo, e quel film lì si farà, ma insomma vediamo. E questa doveva essere l'intervista lieta di Capodanno con la lieta, speranza, ma con queste cose. Ma no, ma allora lei preferisce l'allegria, vuole un... Allegria! Vuole quell'allegria sinistra? No, assolutamente. Ecco, no, allora io preferisco. E allora ci vediamo chissà quando. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, con le stesse nevrosi, le stesse paure, ma soprattutto, diciamolo francamente, le stesse speranze. Avete ascoltato Incontri, a cura di Elena Doni. È intervenuto Paolo Villaggio.